quale sei, o meglio quale indosserai. Lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Buonasera a tutti, eccoci. Ciao. Qui buonasera. Sono le 21.05, buon Natale a tutti. Buonasera, buonasera. Allora, Angelo, quasi ci stavi rompendo i timpani. Ma sì, rompiamo timpani, anche le cosiddette, questa sera. Buonasera a tutti, siamo tutti qui a Radio Alma, tutti gli animatori. Buonasera, sì, quasi tutti, perché purtroppo Ruland e Donatella, che sono, diciamo, la coppia che si alterna con noi durante tutte le trasmissioni dei Colori dell'Anima, questa sera non potranno essere qui, ma ovviamente li salutiamo. Ciao Donatella, ciao Roland. Ciao ragazzi. Ciao, ciao. Allora, dunque, abbiamo pensato a questa trasmissione. Cristina e Barbara, non abbiamo sentito la vostra voce. Ci siamo, buonasera. Ciao Barbara. Ciao, anch'io ci sono. Va bene, insomma, stasera, allora, voi dovete sapere, come si dice dalle mie parti, quando ci sono troppi galli, non fa mai giorno. E allora è quello che è successo qua stasera, che siamo talmente tutti che non sappiamo chi deve fare che cosa. Che cosa, esattamente. Va bene. Allora, dunque, la puntata di questa sera, 10 dicembre 2012, mentre sono le 21.07 minuti dei Colori dell'Anima. Devo dire che io non avevo mai fatto una puntata con Rosanna qui in studio, cioè è emozionante, perché lei ha veramente la voce che radiofonica, proprio di quelle che tu accendi la radio e dici, mamma mia, sto ascoltando la radio. Vabbè, prendimi in giro. Sono inquietato dalla presenza di Angelo qua al mio fianco. Sono abituato a vederlo dietro il vetro che gesticola, che urla, che adesso ce l'ho qua accanto. Non lo so cosa potrebbe uscire fuori, ragazzi. Non ho mangiato fagioli, questo già è una bella già, cosa. Questo è incoraggiante, è incoraggiante. Allora, Cristina, che è in regia, una delle due registe, sta cercando di collegarsi via Skype invece con due veterane di dei Colori dell'Anima, Monica e Annalisa. No. E chissà, magari entro le 22 forse ci riusciamo, vediamo un po'. In effetti non ci sono ancora. Va bene, va bene. Allora, dunque, questa sera non abbiamo un argomento, diciamo, preparato, come di solito cerchiamo di fare. Non abbiamo un ospite, perché ci siamo detti che eravamo già troppi solo noi. Tra l'altro, a malapena ci bastano i microfoni per noi che siamo venuti. Questa sera siamo in sette, appunto mancano comunque Ruland e Donatella. E però volevamo così raccontarvi un po' di noi, magari anche conoscerci fra di noi, perché ci alterniamo ogni lunedì, veniamo a gruppi diversi di due o tre persone, e quindi perché no venire una sera tutti insieme e vedere gli altri come parlano, ascoltarli e così farci le critiche dopo. Noi parliamo male. Parlate male. Allora, io comincerei, visto che Angelo tu sei così particolarmente euforico, ma lo sei sempre del resto. Sì, dai, diciamo di sì. Allora, comincio a parlare di te. Non sono delle preparato. Delle trasmissioni. No, no. Domanda di riserva. Allora, diciamo che la trasmissione tu la fai, per esempio, di solito? Ma di solito io vorrei farla di sabato, però mi hanno dato il lunedì. Quindi il lunedì, l'ultimo lunedì del mese alle 21 ci siamo noi, Angelo, Carla e Giampaolo sulle frequenze di Radio Alma, che vogliamo ricordarle che siamo sempre sui 101.9. E niente, conduciamo questo ultimo lunedì del mese che diciamo io sono sempre in regia, quindi loro sono quelli, i due in prima linea, e... ed è per questo che lui normalmente mangia i fagioli prima di venire, sì, tanto sì. È solo. però sì, siamo assicurati che resti confinato al di là del vetro, così, ben sigillato. Sì, infatti, perché al di là del vetro alcuni nostri, vedo che Eleonora Fuser è già all'ascolto. Ciao Eleonora, ti salutiamo. Ciao. E niente, quindi conduciamo questo ultimo lunedì del mese. Ultimamente abbiamo avuto ospiti dei musicisti, abbiamo avuto ospiti dei traduttori, abbiamo dei traduttori del com'era quella che faceva interprete dei segni. Interprete dei segni, sì, infatti. Sono riuscito a parlare anche io quella sera, perché mi ha tradotto. E noi serviva, la volevamo anche scritturare qua per la trasmissione. Poi gli abbiamo avuto più, Carla. Allora, una cosa che è stata veramente bella è stata l'incontro con due musicisti italiani, di cui uno, Paolo Lovera, è arrivato qui 25 anni fa e uno appena arrivato, è arrivato a settembre, quindi fresco fresco, sebbene abbiano la stessa età. Per cui è stato interessante un po' vedere come i percorsi di vita spesso sono un po' diversi, insomma, chi va dritto all'obiettivo, alla musica, e chi invece per arrivarci, perché entrambi appunto sono venuti qui, fanno i musicisti adesso qui, mentre diciamo quello che è arrivato a settembre per un periodo ha fatto un altro lavoro. Insomma, come i percorsi di vita, sebbene si raggiungano a un certo punto, possono essere assolutamente diversi per ciascuno. Come ben vi ricordate, Carla è psicologa, quindi lei parla. Quindi se mi alzate anche un po' di più il microfono, il numero 5, grazie. E invece Giampaolo, tu come sei arrivato qui in radio? Facciamo scoprire a questi nostri radioascoltatori che sono qui all'ascolto questa sera e hanno l'opportunità di scoprire un po' più personalmente tutti questi animatori di questa radio. Scopriamo le carte. Ma allora, tu che ci fai qua? Ma tu chi sei? Da dove vieni? Questa domanda me la continuo a chiedere anche io. Ogni volta che entro qua dentro poi dico, ma io qua cosa faccio? Cioè, onestamente. Ma aneddoto e contraneddoto a questo punto. Io ho cominciato qua in radio, qualcuno ricorderà forse tra quelli in ascolto, speriamo. Ho cominciato qui in radio come ospite. Infatti l'aneddoto è proprio questo, che parlando con Rosanna, non essendoci visti per tanto tempo e avendo parlato solo per email, lei a un certo punto mi disse che bello, il 10 dicembre finalmente ci conosceremo. Ho detto no Rosanna, noi veramente ci siamo già conosciuti. Lei mi disse ah sì, quando tu eri piccolo, perché ancora? Va bene, adesso volete dire che c'ho, soffro di arterosclerosi. Ma no! dai, diciamolo, finalmente lo possiamo dire! Diciamolo. No, diciamo che dopo essere stato qua come ospite, niente, io ho confessato ad Angelo e Carla che fare la radio era uno dei sogni che avevo da quando ero piccolo. Quindi Angelo mi ha guardato, mi ha aperto le braccia e mi ha detto... E io ho detto 50 euro esatto. Ogni lunedì. E mi ha scritturato come aiuto regista. In realtà in regia non e invece voi Rosanna che cosa ci potete raccontare soprattutto di questa figura qui davanti a me che non ho mai visto, questa losca figura è Anna Maria, la presento, però poi lascio a lei raccontare un po' la sua esperienza. Sì, per me è stata veramente una sorpresa. Rosanna mi ha invitato una volta, come è successo anche a te, ma mi ha invitato una volta per darle un sostegno durante una trasmissione e mi ha invitato una seconda volta, una terza volta, finché non sono entrata un pochino a far parte, ma per me è una prima esperienza. Io la massima esperienza che avevo avuto con il microfono era la registrazione di videocorsi, dove non mi vedeva assolutamente nessuno. Nessuno. Dici linea di videocorso, una che ti ricordi a memoria, dai. Silenzio assoluto, dai. Allora, diciamo il tuo nome. Erano dei videocorsi allucinanti, perché trattavano di software utilizzati nell'amministrazione. Ma in italiano o in inglese? In italiano. Nell'amministrazione pubblica, quindi che vi posso dire? La tassa rifiuti. Bellissimo. No, dai. Che a Salerno, dove vengo io, è altissima, sono 600 euro l'anno, incredibile. Ecco, io adesso quelle che sono le quote, onestamente, le ho perse un po' di vista, però era proprio il massimo che io potessi fare con un microfono, e quindi ecco qua. Io farei un annuncio a tutti quelli che appunto invitiamo, fate attenzione, prima o poi rimanete incastrati nel meccanismo Radio Alma, entrate come ospite, poi tac, vi incastrano, attenzione, non venite più come ospiti. Noi abbiamo fatto tutto lo stage da una certa persona che conosciamo bene, che gli dà il dito e si prende tutto il braccio, quindi stiate pronti, ma in regia, ci sono queste due belle figure, di solito certo che quando vedete là in regia trovate a me con queste capelli, sta barba brutta, stasera troviamo una bionda e una bruna, una cosa incredibile. Parlateci un po', bionda e bruna, chi siete, cosa, da dove venite, un fiorino, le veline di Radio Alma. Allora, io direi che adesso lanciamo una canzone e poi dopo vi raccontiamo di noi. Questa era la bionda, questa era la bionda che parlava. Allora, lanciamo Zucchero senza una donna. E ciao a tutti, rieccoci con I colori dell'anima. Ciao, sì, mi sentite? Allora, forte e chiaro. Volevo sapere se riusciamo a sentire una persona che è in linea, una certa Maite. Maite, ci senti? Una certa Maite, sì, io mi sento benissimo. La famosissima Maite. Ciao Maite! Ti sentiamo. Ciao belli, ciao a tutti. Volevo augurarvi a tutti un buon Natale, a voi, agli ascoltatori e a tutti quanti. E speriamo che uno di questi giorni ce la faccio venire in radio anch'io per parlare un po' con voi. Dopo le feste. Maite, tu lo sai che io... Sì, ti sentiamo. Io ti invito sempre, ma insomma, tu fai un po' di difficoltà. Comunque... Sì, perché io quella strada mi fa paura. Va bene. La strada della perdizione. Quale strada, Maite, ti fa paura? Vi abbraccio tutti. Va bene, ti abbracciamo pure noi. E un buon Capodanno. Senti, Maite, ma tu cosa c'hai sotto l'albero? Cosa metti sotto l'albero? Guarda, io l'albero non l'ho neanche fatto. Ma come non hai fatto l'albero? Lo farò forse la settimana prossima. Lo faccio in ufficio, ma a casa non lo faccio, tanto siamo in due. E in ufficio sotto l'albero che ci metti? Penne, blocchetti, non lo so, post-it? Tutto quello che trovo, va, non ti preoccupare. Va benissimo. Cosa troverò. Modo, ci vediamo alla Befana, dai. Va bene, Maite. Ciao a tutti e buona serata. Cerco di ascoltarmi, ma è un po' difficile. Da Waterloo non mi si sente bene. Grazie, ma già è tanto che ci puoi ascoltare da Waterloo. Ciao Maite. Ciao Maite. Ciao a tutti. Ciao. E beh, questa voce di Maite, bella, bella, bella, bella voce, bella voce. Giampaolo, dai, ricordiamo ste frequenze, sti numeri. Allora, Radio Alma, la potete ascoltare, I Colori dell'Anima, su FM 101.9. Ripeti. Allora, se siete in ascolto su Radio Alma, probabilmente siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Alma, che sono 101.9 FM se vi trovate a Bruxelles, oppure sapete che ci potete ascoltare sempre in web streaming e in diretta su www.radioalma.eu, mentre invece per chi ci vuole chiamare in linea, noi aspettiamo le vostre telefonate, quindi chiamate, e il numero è da Bruxelles 02 345 26 56, mentre invece se chiamate all'Italia dovete mettere il nostro prefisso belga internazionale. Quindi il numero sarà 0032 2345 2656. Mentre se volete mandare sms perché siete tirchi e non volete spendere soldi, mandate gli sms allo 0032 471 4078 04. E noi vogliamo ringraziare Vincenzo Alfieri che dice a Giampaolo vai a zappare, non a fare la radio. Antonella Gangemi che dice non solo voi conduttori ma anche noi abbiamo cominciato ad ascoltare una puntata e siamo rimasti intrappolati nella rete di Radio Alma. Forse Antonella eri un po' ubriaca, vabbè. Ciao a tutti, un bacione particolare a Giampaolo, Angela e Carla. E a tutti i... Angela, sì. No, ha scritto Angelo però quindi, comunque grande, bravi ragazzi. E ci fanno tanti complimenti anche a tutti gli altri animatori. Quindi andiamo avanti. Ma c'era qualcosa in sospeso, c'era una bruna che si doveva presentare e la biondissima, non so, aspettavamo una descrizione. Comincia la bionda. Va bene, allora io sono la più nuova, credo. E io ho cominciato perché ero invitata a venire da Moni e Cristina, mi hanno invitata una volta, abbiamo parlato di internet safety. Sì, e poi... 3 mesi fa. Sì, no, di più. Era tipo febbraio, quindi 7 mesi fa. Poi, siccome Moni è partita, voleva tornare in Italia, e poi ho preso il suo posto. Hai preso la palla al balzo. Ecco. Sostituzione. Sì, e quindi abbiamo cominciato a fare la trasmissione insieme io e Barbara. E intanto Rosanna ci vuole dire qualcosa. No, volevo solo dire di parlare vicino al microfono perché non ti sentiamo bene. Ah, sì. Ecco Rosanna, vedi Rosanna, giusto, il capo de- perché dovete sapere, radioascoltatori. Allora vi spiego una cosa, no? Perché scusami Cristina se ti rubo qualche secondo, ma dobbiamo fare i doverosi puntualizzamenti. Allora, dovete sapere che noi qui siamo tutti, c'è anche una gerarchia in questi colori dell'anima. Allora, per esempio, noi gli ultimi, proprio gli ultimi siamo io e Giampaolo sotto a tutto. Poi incominciano a venire le donne, perché poi sono tutte donne, Giampaolo, sono tutte donne qua, donne, siamo solo io e te e Roland, che però lo sapeva in anticipo e se n'è andato, se n'è chiuso, se l'è telata, ci ha lasciato solo a me e a te. Poi dovete sapere che a capo di tutto questo c'è quella persona che noi conosciamo che si prende il dito con tutto al braccio, però poi c'è Rosanna, che è la coordinatrice di tutti, che è quindi anche quella che ci ammonisce quando facciamo le cose in una maniera un po' sbagliata, quindi noi saremo licenziati dopo questa, puntata. Scusami Cristina, doverosa puntualizzazione. No, assolutamente, non c'è problema. Ma che stavamo raccontando? Questo è l'effetto Angelo Giampaolo. Allora, stavamo raccontando un po' le nostre esperienze radiofoniche. Come quando sei formata la coppia? Quando hai cominciato tu, per esempio? Perché hai cominciato? Io ho cominciato allo stesso modo, come tanti altri, come Giampaolo, come Barbara, e ho cominciato circa un anno fa, mi sembra, insieme con Monica, che probabilmente avremo la fortuna di avere in linea tra poco, che si connetterà dall'Italia. E quindi sono venuta qui a una trasmissione nel mese di giugno, abbiamo parlato delle sagre in Italia, c'era anche Ruland, e mi è piaciuto tanto, mi sono divertita e anche io ho detto mi piace, mi diverto. E sei caduta anche tu nella trappola. E sono caduta anche Alma. Io nella trappola, quindi ho fatto circa un anno, un annetto la trasmissione con Monica, che è stato anche una bella esperienza, ci siamo molto divertite, e poi a un certo punto è arrivata Barbara che mi affianca da un bel po'. Allora, che porta un altro accento ai colori dell'anima. Un po' più internazionale. Perché Barbara, come ormai lo sanno tutti, però lo ripetiamo, Barbara è metà italiana e metà austriaca. Quindi è quella più dritta, quella più... strutturata. Senti Cristina, dicevi prima che forse c'era Annalisa in linea? Sì, c'è Annalisa è in linea, sì. Ciao Annalisa, ciao, ma non te la passiamo la linea? Oh. Adesso vediamo se riusciamo a sparlare con Annalisa. Dai, vediamo se riusciamo a sparlare. No, ragazzi, io penso che è vero che dobbiamo avere questa politica di... No, questa non era Annalisa. Annalisa, lo so, è la politica. Annalisa, ma noi qua di politica non ce ne può fregare di meno. Allora io prendo la palla al balzo e leggo il primo SMS che ci arriva dal nord della Sicilia. Mi chiamo Pipperiniedo, figlio di Don Votuzzo, o sindaco, ma voglio sgratulare con tutti voi. Sono un assiduo ascoltatore del Radio Alma, vi auguro un gran fervido augurio da buon Natale. Un buon anno, un salutino particolare al famosissimo musicista Angelo Carlo Giampaolo. Ciao Pipperiniedo del nord Sicilia, Niente, guarda che non te li leggiamo più gli SMS se non fai anche i complimenti a tutti gli altri animatori. E grazie Pipperiniedo di ascoltarci. E noi eravamo rimasti ad Annalisa. C'è? Sì, questo Pipperiniedo. Sì, Annalisa c'è, ma non so se ci sente. Pronto, Annalisa? Pronto? Annalisa? Annalisa, ci sei? Pronto? Eccola! Annalisa, ciao! Ciao! Mi sentite? Sì, ciao! Pronto, mi sentite? Sì, ci sentiamo! Tu ci senti? Annalisa? Ciao a tutti! Sì, ciao! Annalisa, ci senti? Io vi sento, ma sono un po' al telefono e un... Un po' al telefono? E un po' sul cellulare, per cui è un po' un casino, ma sono le cose da Radio Alma. Io vi sento, ma sono un po' al telefono... Sì, si sente da... Annalisa, devi ascoltarci solo dal cellulare. Tardi perché adesso non riusciamo tanto a connetterci. Ci sentiamo tra poco. Intanto va, Rosanna, va bene, ciao. Ciao. Annalisa, che quindi sentiremo più tardi, perché è al telefono, perché è stata per un po' di mesi qui in Italia, adesso è tornata nella sua Monza, mi sembra, sì, esatto. Che è di Monza. e per qualche mese quindi non lei quella veniva... belga di Monza non Mons no, non Mons, e quindi per qualche mese è venuta qui in radio, in particolare veniva, facevamo la trasmissione insieme, e so insomma che ha lasciato con grande nostalgia tutti noi di, dei Colori dell'Anima. Allora, avete ricordato prima tutte le nostre informazioni, ma non l'indirizzo email. Giusto. Che è icoloridellanima@radioalma.eu. Quindi vi ricordo che potete scriverci anche una mail a icoloridellanima@radioalma.eu. E poi, come anche sapete, tutte le nostre trasmissioni le potete ritrovare sul blog quando riusciamo a scaricarle, perché non lo facciamo sempre tempisticamente, ma insomma ci proviamo, sul blog quindi della radio, che è radioalma.eu/icoloridellanima, radioalma.eu/icoloridellanima. Allora, magari a questo punto sarebbe bello anche di, diciamo, di gettarci un po' nella ragione un po' che ci ha portato qua, a parte la radio, il fatto che quasi per molti è l'ultima trasmissione prima di Natale. Forse ci sarà la trasmissione di lunedì prossimo con Cristina? No? No, di chi è la trasmissione di lunedì prossimo? La nostra? La nostra, che bello. Ecco, vedi. Che bello. Vedi, a volte uno è si distrae. La vita è piena di sorprese. Di sorprese. Ragazzi, tutto il team di Radio Alma è stato invitato a Ciampoli, in Sicilia. Dai, andiamo. Per Natale, andiamo tutti? Facciamo un charter. Per Pasqua. Allora, Pasqua, tu Colori dell'Anima, Ciampoli. E per Natale, che cosa faranno gli animatori di Radio Alma? Chi rimane in Belgio? Chi rimane... Questo lo diremo dopo un brano musicale, magari? Ma perché no? Sì, che ci fate ascoltare? Così intanto ci prepariamo. Voglio una mora. Veline, cosa ascoltiamo? Non ti sentiamo! Velina! Lanciamo Fiorella, Mannoia, Sally. Wow. Mamma, questa ci annoia proprio. Rosanna, Anna Maria, Cristina, Barbara, Roland, Donatella, Carla, Angelo, Giampaolo. Sono felici di ospitarvi in un programma tutto da scoprire. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai? Ogni lunedì dalle 21 alle 22 su Radio Alma. I colori dell'anima. E rieccoci qua di nuovo sui Colori dell'Anima, 101.9, come abbiamo già ripetuto molte volte, come ripetiamo ogni lunedì sera. E adesso siamo sempre qui tutti insieme in studio, ma ci colleghiamo online con Annalisa. Vediamo se riusciamo a parlare con lei. Annalisa, ci senti? Annalisa, mi senti? No, non mi sente. Ok. Allora proviamo più tardi. Continuiamo. Sentiamo Skype. C'è una chiamata in arrivo. C'è una chiamata in arrivo? Sì. Sì, la sentiamo. Pronto? Eccola! Ciao. È perché ciao. Eccola. Mi sentite? Okay. Sì, ora ti sentiamo. Prima non ti sentivo. Bene. Sei su Skype, il telefono. Ciao Annalisa, come stai? Bene, bene. Ma sono in diretta? Sì, sei in diretta. Ah, ciao a tutti allora. Non sapevo se la canzone era finita o era ancora in, insomma, c'era ancora la pubblicità tra virgolette. No, la pubblicità, finita la canzone. Adesso ci sei soltanto tu. Allora, gli altri sono qui in studio e ci sono persone che vorrebbero sapere un po', volevano un po' parlare di te, com'è stata la tua esperienza qui in radio. Ci vuoi raccontare un po'? Perché questa sera ci stiamo raccontando tutti quanti per salutare il nostro pubblico prima delle vacanze di Natale. Certo. Beh, intanto saluto tutti voi, che è un piacere salutarvi così a distanza. E poi è stata la mia esperienza in radio, è stata talmente bella che vi dico che oggi ero al lavoro e a un certo punto, presa dalla disperazione, ho cercato su Google, ho cercato come si fa a diventare speaker radiofonici. Perché hai trovato cose interessanti? Ho trovato che c'è un ebook. In Italia devi pagare. Un'associazione degli speaker radiofonici di non so dove. E quindi, insomma, adesso io e Monica ci metteremo. No, non è qui Monica, però ogni tanto ce la buttiamo lì la battuta di fare una nostra anche vostra radio. Facciamo i colori dell'anima in Italia. Facciamo la sede distaccata dei colori dell'anima. Esatto. Perfetto. Comunque è stata veramente una bella esperienza. Poi Rosanna, come avete già detto voi, è, come dire, l'autorità in persona, per cui mi ha instradato bene su questa via che porta alla perfetta competenza radiofonica. Quindi... tutti per te, Rosanna. Volevo farvi i complimenti per questo puntatone, perché siete come sempre frizzanti e, insomma, come vi ricordo, divertenti, e vi divertite, questo alle persone a casa, quindi anche a me arriva. Grazie mille. Senti, ma la tua ripresa della vita italiana com'è stata? Vabbè, politica a parte, come avete ben visto in questi giorni, ma non ci interessa. Bene, bello. Insomma, il bel paese è sempre bello. In questi giorni è arrivata anche la neve, per cui c'è un tocco di inverno in più. E, insomma, all'inizio così un po' strano, però poi ho ripreso e, insomma, sono contenta. Poi chissà il futuro dove ci porterà. Magari sarai in una radio e ci inviterai anche a noi, diventerai la nuova stella della radio. Adesso lasciamo un po' lo spazio a Carla, che voleva dire qualcosa. Senti, no, ti volevo chiedere, per favore, però la Colori dell'Anima non lo fare lunedì, perché sennò ci fai concorrenza, poi stravinci, noi vogliamo ascoltarti, quindi fallo un altro giorno, così ci manteniamo in contatto. Ok? Ma noi non potremo mai fare concorrenza agli originali. grazie, fantastico. No, anche perché sennò ti mandiamo tutta la Sicilia a radere al suolo lo studio di Milano, di Monza, dove te trovo. Non vi sento benissimo, comunque sono sicuramente d'accordo con tutto quello che avete detto. È meglio così. Infatti, bravi, siete stati un regalo di Natale. Oh, che bello. Annalisa, grazie di esserti messa in contatto con noi, è stato veramente un piacere sentirti e, insomma, hai un entusiasmo anche tu contagioso che hai lasciato veramente un bel ricordo. Ci dispiace che Monica non potrà collegarsi perché sta rientrando in Italia proprio questa forse sera. Sì. Forse ce la fa per forse la fine. Fa. Va bene, speriamo, d'accordo, vediamo. Speriamo. Va bene, ciao Annalisa. Ciao Annalisa, ti salutiamo tutti quanti. A presto. Buon Natale. Ciao e buon Natale. Ciao. Continuiamo con la nostra chiacchierata invece con quelli che sono qui presenti. Allora, abbiamo detto che Ruland e Donatella non possono essere qui e neanche può esserci Domenico Locatelli, che, come sapete, insomma, ha partecipato a varie trasmissioni qui in radio, si è interessato a vari argomenti. E io volevo, eravamo rimasti con una domanda prima, Carla, sì. E cioè, dove trascorreremo le prossime vacanze? Allora, chi è che non va in Italia? Una, ecco, Anna Maria. Io. Perché Anna Maria non va in Italia? Dai, di la verità. Perché ho scelto di rimanere qua. Perché Bruxelles mi piace sotto Natale. Ho capito. Strano. No, e in realtà sono riuscita a convincere il resto della famiglia a spostarsi qui per Natale. Ho capito. Quindi... Cosa hai fatto? Li hai drogati? Li ho minacciati. Gli hai inviato le foto dell'albero? Della Gran Place. No, soprattutto non ho inviato le foto dell'albero. Ma no, quello dell'anno scorso però. Sì, in effetti era un fotomontaggio. Poi di là dal vetro, chi è che non va in Italia? Barbara, perché non vai tu? La bionda. Perché alla fine abbiamo deciso di andare in Austria con la famiglia. Spesso certo. Facciamo un anno in Italia a trovare i parenti lì, un anno in Austria, vengono loro. Quest'anno, l'anno scorso siamo stati in Italia, quest'anno andiamo in Austria. E come sono democratici. Va bene. Beh, speriamo che c'è la neve poi. E tutti gli altri invece tornano al loro paesello. Allora, io in Abruzzo. Meno otto giorni! Dovete sapere che sul calendario che abbiamo in cucina, c'è Angelo che ogni mattina mette la sua bella crocettina e fa il suo conto alla rovescia. Quindi non, le ore no, però i giorni sono ben contati, quindi la meno 8, mercoledì prossimo alle 22:30 più o meno arriveremo a Napoli, capo di chino. Sì, facciamo sapere tutti i cavoli nostri, sì, a tutta la gente, sì, no? Sappiatelo. Dopo già il mio cellulare, il mio cellulare, venitemi a prendere a casa, accompagnatemi all'aeroporto. Scusa, ma guarda, in realtà era finalizzato a questo, vorrei qualcuno che mi venisse a prendere a capo di chino, gentilmente devo arrivare a Caserta, quindi io sono anche disposta a attendere 10 minuti, però insomma, se qualcuno ed arriva un SMS, ciao a tutti ragazzi, siete formidabili, è sempre un piacere ascoltarvi, tornate presto a trovarci, un Sicilia abbraccione. Ah no, ma questo già l'avevamo letto, no, cioè, ne è arrivato subito un altro, eccolo qui, ascoltare le vostre voci è piacevole, ci mette di buon umore, è musica che nascendo dal cuore trasmette tanta armonia, grazie di esistere, yeah. Rosy. Beh, bellissimo. Grazie Rosy. Ma a me piacerebbe poi anche sapere che cosa fa nella vita ognuno di voi. Perché questo è bello. No, questo è un segreto. Questo è un segreto, vabbè. No, se lo dice Rosanna. Tutto, non possiamo svelare tutto. Se lo dice Rosanna, allora c'è questo momento di panico, di silenzio che nessuno sa cosa dire. No, io lo so. Ebbene, vai. Io calma. Lo so, ti volevo dire che sei molto carino. a me. Sì. No, era giusto per non rimanire senza dire io niente, mica lo penso. In questo momento possiamo lanciare un'altra canzone. Dai, Barbara, ci salvi tutti. Canzone di Carlo. Come di Carlo? Mannaggia, ma tu, come di Carlo? Angelo. Ma ti chiamo Barbaro. Ciao, Barbaro. Come sei? Tu, Barbaro dell'Austria, tu, Barbaro dell'Austria. Non ti preoccupare, normale. Vabbè, di Angelo. A un smallo ravatta. Sì, intanto qui sentiamo già. Ed eccoci qui, tornati in studio sulle frequenze 101.9, 101.9 FM. Questi sono i colori dell'anima su Radio Alma. Questa sera il tema della puntata è Buon Natale a tutti da parte di tutto lo staff dei colori dell'anima. Infatti qui in studio con noi c'è Giampaolo, Rosanna, Carla, Anna Maria, Barbaro, lo chiamo adesso, la chiamo così, Barbaro, Barbara e Cristina. Allora, quello che avete appena ascoltato era un mio brano che si chiama Ma cosa vuoi che ti dica adesso? Ed è un brano che è stato estratto dal nuovo disco che uscirà a maggio del mio gruppo che porta il mio stesso nome, Angelo Gregorio Band. A breve posteremo un piccolo video sulla nostra pagina Facebook, ma veniamo a questa persona che è in linea telefonicamente. Stanno arrivando fior fiori di telefonate, fior fiori di messaggi. Sommersi. Sì, infatti salutiamo anche Tiziana Genovese e vediamo parola alla regia. Abbiamo in linea Francesco che è un siciliano che ci chiama dal Trentino. Attenzione, un siciliano dal Trentino. Oggi si pronto? Sta veramente, siamo vicini alla fine pronto, del mondo. Francesco? Pronto, vi sento. Ti senti? Pronto? Sì, ti sentiamo. Pronto? Pronto, sì, Francesco, ti senti? Perfetto. Ragazzi, ho chiamato solo per farti un saluto e gli auguri di Natale. No, grazie, Francesco, auguri grazie anche a te. Francesco, auguri. Ma come si sente un siciliano in Trentino Alto Adige? Ma soprattutto cosa fa un siciliano in Trentino? Cosa fa? Non fa niente, guarda, preferirebbe niente in questo momento, veramente. In verità, voi come state? Noi stiamo benissimo. Complimenti ancora per la trasmissione. Io ho chiamato solo per rinnovarvi l'invito in Sicilia. E non vi preoccupate, è tutto spesato dal dottore Vincenzo Alfieri. scusa, ma il dottore Vincenzo Alfieri per potersi permettere tutte queste spese, cioè come fa? Lui è un medico rinomato germanico. Potete venire tranquilli. Ancora complimenti ragazzi, io vi sento malissimo perché vi sto chiamando con Skype. Saranno le montagne del Trentino. sì, sarà la neve. E i muli del Trentino, che quelli attirano questo selvaggino. Saranno i Trentini che oscuro. Beh, Francesco, noi ti auguriamo un buon Natale. Speriamo di vederci presto da parte qui di tutto il team dei colori dell'anima. 33. Ciao Francesco. Ragazzi. Complimenti, ciao. Ciao Francesco, grazie di averci chiamato. Intanto, mentre Francesco Mentre Francesco ci chiamava al telefono, è arrivata un'altra chiamata dall'Italia ed è Monica. Cioè, Monica sta chiamando in questo momento, quindi tra poco potremo parlare insieme con lei. Vai. Allora, intanto prima di sentire Monica volevo fare un breve riepilogo. Questa sera ci ritroviamo qui tutta l'equipe dei Colori dell'Anima. Non abbiamo dato un colore alla serata, ma ovviamente il primo rosso natalizio, certo, rosso natalizio per fare gli auguri di Natale con un po' di verde, va bene. E per fare gli auguri. Mo basta, allora, mo abbiamo detto i colori della bandiera italiana, insomma, tra una cosa e l'altra, va bene, ma perché no? Intanto c'è in linea anche Claudia, quindi la mandiamo tutto, in onda. Sta arrivando di tutto. Mandiamo pronto, Claudia, ci senti? Ciao, sì, vi sento. Ciao, Claudia. Ciao. Ciao, ciao. Come stai? Io vi saluto dalla Calabria, qui piove a dirotto, lì sì. Un pochettino meglio va. Sì, qua meglio va. Qua c'è il sole. Qua c'è il sole, sì, sole che spacca le pietre. Senti, ma come abbiamo chiesto a Francesco, ma cosa fa una abbiamo chiesto cosa fa un siciliano nel Trentino Alto Adige, e tu come siciliana, che ci fai in Calabria? Studio, come Francesco, io studio medicina qui. Ah, medico sei. Una medichessa. E dici, i medici a Natale che fanno? Un pochettino i macellai. Veramente? Come i macellai? Il compito di ammazzare il sacchino. Ah, benissimo, ma da quale parte incominci? Una scelta difficile, come medico dovrei incominciare a sezionarlo dalla testa. Però se voglio essere più cruenta... Vabbè, devi studiare ancora, Claudia, devi studiare, non è... Ripassa, non, ripassa! Bocciata. Ripassa! Senti, come ti facciamo una domanda a bruciapelo, come hai scoperto i colori dell'anima? Grazie a Giampaolo. Ah, quindi ho capito. E perché ascolti i colori dell'anima? Perché siete divertenti ed è un modo per essere in collegamento con la realtà distante. Ah, e perché consiglieresti ad un amico di ascoltare i colori dell'anima? Per lo stesso motivo. Benissimo, ha studiato, Claudia, promossa. Noi ti ringraziamo e ti salutiamo. Vuoi salutare qualcuno? Ti concediamo 2 secondi. Saluto Antonella, Francesco e tutti quelli che conosco. Tutti. Benissimo, ciao Claudia, ciao, in bocca al lupo. Grazie per aver chiamato. E intanto possiamo andare in collegamento con Monica, che è appena arrivata in Italia. Monica, ci senti? Ciao, sì, ci sono, ciao a tutti. Ciao, gli altri ciao. Sono qui, li senti? Ci senti tutti? Sì, io ti sento, sì, vi sento bene. Mi sa che è un po' in ritardo, che vi sento un po' in ritardo, però vi sento bene. Che sei un po' in ritardo, Monica, sei tu che sei in ritardo. No, vi sento dopo, però vi sento bene. Ma sfuriamo, che ce ne importa. Come stai, Monica? Com'è andato il volo? È stato una lunga attesa sull'aereo. No, però è andato bene, sì, e poi vabbè, dopo ho rivisto Bruxelles, dopo un po' di mesi, quindi è stato bello anche rivedere anche gli amici, così, un po' meno le cose pratiche, le cose amministrative, però va bene. Quando c'è. Ma senti, tu invece come hai conosciuto la radio? Diciamo che tu insieme con Rosanna questa sera sei una dei veterani, possiamo dirlo. Ecco, dov'è Rosanna? C'è Rosanna? Ciao Rosanna! Ciao! Brava che sei arrivata giusto in tempo per salutarci. Ecco, veramente, infatti la prossima volta passo da te. Va bene. No. In radio ci incontriamo. Sì. No, come ho conosciuto, ma in realtà dove lavoravo prima, Domenico ha saputo che io lavoravo in un posto francofono e c'era un italiano in questo posto francofono, e quindi è venuto, è salito al quarto piano e ha bussato nel mio ufficio e ha detto: ma ho saputo che c'è un'italiana, e quindi abbiamo iniziato a parlare. E mi ha chiesto: ma tu non vuoi fare una puntata? Ed era una puntata appunto sui morti e sui santi morti, quelle cose. E quindi niente, la sono intervenuta perché avevo fatto la mia tesi, l'avevo fatta su alcune opere che erano presenti anche in alcuni cimiteri a Bruxelles, alcune opere di alcuni artisti belgi. E quindi poi da lì ho iniziato, dopo Rosanna mi ha proposto. Ma hai iniziato in allegria proprio? Cosa? Hai iniziato in allegria? Ho iniziato, sì, non ho sentito la parola. In allegria, con tutti quei morti. In allegria. Ma guarda, è stata una bella puntata. Dopo ci siamo divertiti parecchio. Sì, sì, sì. Io sono stato ospite vostro, ti ricordi? Una bella puntata, me la ricordo proprio come una bella puntata. E dopo da quella puntata lì mi sono detta, ma guarda che bella la radio. E quindi poi, dopo niente, è partito tutto, poi... È partito, ci siamo divertiti, prima con Carmen, poi con Cristina, sì. E Barbara, c'è lì Barbara anche? Sì, sì, Barbara sì. È qua. Ciao! Barbara, ciao! Angelo l'ho sentito, anche Carla, penso che... Luland e Donatella sono lì. No, questa sera non ci sono, però ci sono telepaticamente. Ecco, esatto, sì, sì. Va e bene, quindi... Monica. Va bene. Buon Natale. Buon Natale. Buon Natale anche ciao. A voi. Grazie di essere collegato con noi. Ci sentiamo presto. Un abbraccio. Un abbraccio anche a voi. Ciao. Adesso lanciamo un'altra canzone. Ma sì, Barbaro, vai. Lanciamo Tiziano Ferro, Sere Nere. Di sere nere. Allora, eccoci qua. Siccome io sembra che sia la più tranquilla, mi hanno dato l'onore di cominciare i saluti. Stanno ridendo tutti sotto i baffi. Non li vedete? Io sì. Bene, io sono Anna Maria, non so se ve lo ricordate. Volevo salutarvi, faccio tanti auguri di Buon Natale e passo la palla alla mia amica. La ricevo con piacere. Io volevo dire che i baffi me li sono fatti, quindi io non sto ridendo sotto i baffi. Non si vede, c'è rimasto l'alone nero, quindi vuol dire che hai tirato troppo velocemente la cosa, eh? Vabbè, effettivamente ho preso il sole dopo la ceretta. No, va bene, allora, innanzitutto a me è fatto piacerissimo di essere qui stasera con tutti voi e di aver potuto anche parlare